qui con me, sto male, lo sai. Voglio illudermi di riaverti ancora com'era un anno fa. Io stasera insieme un altro e tu sarai forse a ridere di me, della mia gelosia che non passa più, ormai non passa più. Pazza idea di far l'amore con lui, pensando di stare ancora insieme a te. Folle, folle, folle idea di averti qui, mentre chiudo gli occhi sono tua. Ubriaca di gelosia, continuavo a chiedere. E poi mi ha detto: senti, camminiamo. Siamo scesi in fretta, ma restati lì, in silenzio, soli. Io ti ho stretto, stretto a me. La tua giacca sul mio viso mi hai detto: basta amore. Sono stanco, lo vuoi tu? Pazza idea di far l'amore con lui, pensando di stare ancora insieme a te. Folle, folle, folle idea di averti qui, mentre chiudo gli occhi e sono tua. Vedere solo te. Immaginare vorrei, vorrei te. We'll be right back.